Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Il disgraziato cambusiere pareva mi stesse aspettando all'ingresso della casa degli ufficiali. In cima alla scala, fatta di pochi gradini molto larghi, egli andava rapido avanti e indietro come fosse alla catena, un cane in agitazione. Pareva avere la gola troppo secca per abbaiare. A malincuore, debbo dire che prima di entrare mi fermai. Nella mia natura morale si era prodotto un rivolgimento. Rimasi a guardarlo per un mezzo minuto, mentre egli aspettava a bocca aperta, senza respirare. «E voi credevate di potermi lasciar fuori?» dissi con sarcasmo. «Avete detto che rimpatriavate?» squittì miseramente. «Lo avete detto! Lo avete detto!» «Mi chiedo che cosa dirà il capitano Ellis di questa scusa», articolai lentamente con un sinistro sottinteso. Gli tremava la mascella inferiore e la voce era come il belato di una capra malata. «Mi avete denunciato! Mi avete fatto fuori!» La sua angoscia e la pura assurdità del dubbio non riuscirono a disarmarmi. Era la prima volta che uno tentava di farmi del male, o, quantomeno, la prima volta di cui mi fossi mai accorto. Ed ero ancora troppo giovane, troppo al di qua della linea d'ombra, per non rimanere sorpreso e sdegnato di fronte a cose simili. Continuai a fissarlo inflessibile. Soffrisse pure il mascalzone. Si diede una manata in fronte ed io entrai. Inseguito nella sala da pranzo dal suo strillo, «L'ho sempre detto che sareste stato la mia morte!» Quella protesta non solo mi raggiunse, ma per così dire sopravanzò fin sulla veranda, facendo apparire il capitano Gilles. Stava dinanzi a me sulla soglia in tutta la banale solidità della sua saggezza. Sul petto gli luccicava la catena d'oro. Stringeva nel pugno la pipa accesa. Gli tesi la mano con calore ed egli parve sorpreso, ma alla fine rispose, altrettanto cordialmente, con un lieve sorriso che aveva l'aria di saperla lunga e che tagliò corto ai miei ringraziamenti come con un coltello. Credo che non sia venuta fuori più di una parola. E anche di quella sola parola, a giudicare dal bruciore in faccia, arrossì come di una bruttazione. Prendendo un tono disinvolto, gli chiesi come mai era riuscito a individuare il giochetto che si stava svolgendo sotto sotto. Mormorò compiaciuto che in quella città succedevano poche cose di cui non potesse capire il senso nascosto. E, quanto a quella casa, egli continuava a servirsene da quasi 10 anni. Nulla di quanto vi avveniva poteva sfuggire alla sua grande esperienza. Non gli era costato nessuna fatica, nessunissima. Poi, con la sua voce placida e velata, chiese se avevo reclamato formalmente per l'azione del cambusiere. Gli dissi di no, anche se non me ne era certo mancata l'occasione. Il capitano Ellis mi aveva strapazzato in maniera davvero ridicola perché non mi avevano trovato quando mi cercavano. «Quel vecchio strambo», interloquì il capitano Gilles. «Che gli avete risposto?» «Semplicemente che ero venuto appena avevo saputo della sua comunicazione. Nient'altro. Non intendevo far del male al cambusiere. Non mi degnerei di colpire un essere simile. No. Non ho reclamato, ma lui probabilmente crede di sì. Lasciamoglielo credere. Si è preso uno spavento che non dimenticherà tanto presto, perché il capitano Ellis, con un calcio, lo avrebbe spedito fino in fondo all'Asia se... «Scusate un momento», disse il capitano Gilles, lasciandomi improvvisamente. Mi sedetti sentendomi molto stanco, soprattutto di testa. Ma prima che potessi riprendere il filo dei miei pensieri, era di nuovo dinanzi a me, spiegandomi con un mormorio che era dovuto andare a tranquillizzare quel povero diavolo. Alzai gli occhi con aria sorpresa. In realtà non me ne importava nulla. Egli raccontò di aver trovato il cambusiere steso boccone sul sofà di crine. Ora stava bene. «Non sarebbe davvero morto di paura», dissi con disprezzo. «No, ma avrebbe potuto prendere una dose di troppo di una di quelle bottigliette che si tiene in stanza, ribatté serio il capitano Gil. Quel pezzo d'asino ha già tentato di avvelenarsi un paio d'anni fa. Ma guarda, dissi per nulla turbato, non sarebbe una gran perdita comunque. Ah, se è per questo lo si potrebbe dire di parecchi. Ma non esageriamo, protestai ridendo un po' risentito. Ma mi chiedevo proprio come farebbero da queste parti senza la vostra assistenza, capitano Gil. Ecco che in un sol pomeriggio avete procurato un comando a me e salvato la vita al cambusiere. Per quanto non riesca a comprendere il motivo per cui vi siate così interessato all'uno e all'altro. Il capitano Gil tacque per un minuto. Poi, con gravità, non è proprio un cattivo cambusiere. È perlomeno capace di trovare un buon cuoco. E per di più, dopo averlo trovato, sa tenerselo. Ricordo i cuochi che avevamo prima che venisse lui. Devo aver fatto un gesto di impazienza, perché si interruppe, chiedendo scusa di avermi tenuto lì in chiacchiere inutili mentre avevo bisogno di tutto il mio tempo per i preparativi. Ciò di cui in realtà avevo bisogno era di stare solo per un po'. Approfittai subito di quell'occasione. La mia stanza era un tranquillo rifugio in un'ala apparentemente disabitata dell'edificio. Non avendo assolutamente nulla da fare, poiché non avevo disfatto i bagagli, sedetti sul letto e mi abbandonai agli influssi del momento. Agli imprevedibili influssi. Mi meravigliai in primo luogo del mio stato d'animo. Perché non ero sorpreso più che tanto? Perché? Eccomi qua. Investito di un comando in un batter d'occhio, non già secondo l'ordine consueto delle umane cose, ma come per magia. Avrei dovuto essere in preda allo stupore, e non lo ero. Somigliavo molto ai personaggi dei racconti di fate. Non si stupiscono mai di nulla. Quando un cocchio di gala fornito di tutto punto viene fuori da una zucca per portare al ballo Cenerentola, lei non dà un grido. Sale tranquillamente e se ne va in carrozza incontro alla sua eccelsa fortuna. Il capitano Ellis, una fata di specie piuttosto rude, aveva fatto saltar fuori un comando da un cassetto inaspettatamente, come in una fiaba. Ma un comando è un concetto astratto e mi parve una specie di portento minore finché di colpo pensai che implicava l'esistenza concreta di una nave. Una nave. La mia nave. Era mia, totalmente mia da possedere e da averne cura più di ogni altra cosa al mondo, oggetto di responsabilità e di dedizione. Stava laggiù, in mia attesa, prigioniera di un maleficio, senza potersi muovere, vivere, uscire nel mondo fino al mio arrivo, come una principessa incantata. Il suo richiamo mi era venuto come dal cielo. Non ne avevo mai sospettato l'esistenza, non sapevo com'era. Ne avevo udito appena il nome, eppure per un tratto del nostro futuro eravamo uniti indissolubilmente per affondare o stare a galla insieme. Un impeto improvviso di ansia e di impazienza mi corse nelle vene, procurandomi una sensazione intensa di vita, quale mai ho provato prima o dopo. Scoprì quanto ero marinaio, di cuore, di mente e per così dire fisicamente, soltanto uomo di mare e navi. Il mare unico mondo che avesse importanza e le navi banco di prova di vitalità, di temperamento, di coraggio e fedeltà e di amore. Passai un momento squisito che fu anche l'unico. Balzai su dal letto e camminai a lungo su e giù per la stanza, ma quando entrai in sala da pranzo mi mantenni abbastanza composto, solo che non riuscii a mangiare nulla. Avendo dichiarato che intendevo recarmi alla banchina a piedi e non in carrozza, devo riconoscere che il disgraziato cambusiere si fece in quattro per trovarmi dei coolies per il bagaglio. Questi se ne andarono portando ogni mio bene terreno, salvo un po' di denaro che avevo in tasca, appeso ad una lunga pertica. Il capitano Gilles volle accompagnarmi. Seguimmo l'ombroso cupo viale attraverso la spianata. Là, sotto gli alberi, c'era una discreta frescura. Il capitano Gilles commentò con un'improvvisa risata: «Conosco qualcuno che ringrazia il cielo di non dovervi più vedere». Capì che voleva riferirsi al cambusiere. Costui aveva tenuto sino all'ultimo nei miei confronti un atteggiamento passivo e imbronciato. Espressi la mia meraviglia perché aveva cercato di giocarmi un brutto tiro senza alcun motivo. «Ma non capite che voleva sbarazzarsi del nostro amico Hamilton facendovelo sgattaiolare davanti per prendere quel posto? Con ciò lo avrebbe tolto una buona volta di mezzo, capite?» «Ma cielo!» esclamai sentendomi un po' mortificato. «Ma possibile! Ma quanto è sciocco! Quel fannullone arrogante e sfacciato, perbacco! Non avrebbe potuto!» Eppure quasi quasi ce la faceva, perché la capitaneria non poteva fare a meno di mandare qualcuno. «Già, uno sciocco come il nostro cambusiere è un pericolo a volte», dichiarò sentenziosamente il capitano Gilles. «Appunto perché è uno sciocco», aggiunse con voce bassa e compiaciuta, spiegando ulteriormente il suo concetto. «Infatti», proseguì come annunciando una dimostrazione, «nessun individuo ragionevole rischierà di essere buttato a calci fuori dall'unico posto che gli impedisce di morire di fame solo per sbarazzarsi di una semplice seccatura, una piccola preoccupazione. Non vi pare?» «Ebbene, sì», concessi, frenando la voglia di ridere per quel tanto di fervore e mistero che egli poneva nell'esprimere le conclusioni della sua saggezza, quasi fossero frutto di un'operazione illecita. «Ma quel tipo sembra proprio un po' matto. Deve esserlo per forza. Quanto a ciò, credo che a questo mondo ognuno sia un po' pazzo», sentenziò con calma. «Senza eccezioni?» mi informai, solo per sentire che cosa rispondeva. Stette zitto per un poco. Poi colse nel segno con molta efficacia: «Certo, Ken lo dice persino di voi». «Ah, davvero?» replicai, sentendomi di colpo inasprito nei confronti del mio ex capitano. «Però nella dichiarazione scritta che ho in tasca non ne ha fatto il minimo cenno. Vi ha dato qualche esempio della mia follia?» Il capitano Gilles chiarì in tono conciliante che era stata solo un'osservazione amichevole in merito alla mia repentina partenza dalla nave senza motivo plausibile. Mormorai con malumore: «Ah, per la partenza dalla sua nave», ed allungai il passo. Egli si mantenne al mio fianco nella profonda oscurità del viale, quasi che, per dovere di coscienza, volesse accompagnare fuori dalla colonia un tipo indesiderabile come me. Ansava un poco, cosa in un certo senso patetica, ma non ne fui commosso, anzi, provavo una specie di maligno piacere per il suo disagio. Non tardai ad addolcirmi, andai più adagio e dissi: «In realtà ciò che volevo era di attaccarmi a qualcosa di nuovo. Sentivo che era tempo. È una pazzia così grossa?» Non rispose. Stavamo sbucando fuori del viale. Sul ponte, sopra il canale, una figura scura ed indecisa pareva aspettare qualcuno o qualcosa. Era un poliziotto malese, dall'uniforme azzurra, scalzo. Sul piccolo berretto rotondo il gallone d'argento brillava debolmente alla luce di un fanale. Scrutò timidamente nella nostra direzione. Prima che potessimo raggiungerlo, girò su se stesso e ci precedette in direzione del molo. Ne distavamo un centinaio di metri. E allora trovai i miei coolies accoccolati sui calcagni. Si erano tenuta la pertica sulle spalle e tutti i miei beni terreni, sempre legati alla pertica, posavano in terra fra loro. Fin dove arrivava l'occhio lungo la banchina, non v'era altra anima viva all'infuori del piantone indigeno della polizia, che ci salutò. A quanto pare aveva fermato i coolies come individui sospetti, vietando loro l'accesso al molo. Ad un mio cenno, però, tolse in fretta il divieto. Quei due pazienti individui, alzandosi simultaneamente con un lieve grugnito, trotterellarono innanzi sul tavolato, ed io mi preparai a prendere commiato dal capitano Gilles, che se ne stava là, con l'aria di essere ormai vicino al termine della sua missione. Non si poteva negare che l'avesse compiuta fino in fondo. E mentre esitavo in cerca di una frase appropriata, lo sentii dire: «Prevedo che vi troverete in mezzo a un sacco di complicazioni». Gli chiesi che cosa glielo facesse pensare e rispose che era la sua generale esperienza del mondo. Nave da tempo lontana dal suo porto, armatori non raggiungibili per telegrafo e l'unico uomo in grado di fornire chiarimenti morto e sepolto. «E voi, in un certo senso, nuovo del mestiere», concluse in un tono che non ammetteva repliche. «Non insistete», dissi, «lo so fin troppo bene. Vorrei solo che prima di andarmene poteste infondermi una piccola parte della vostra esperienza, e poiché in 10 minuti è impossibile, meglio non chiedervelo nemmeno. E poi c'è la lancia del porto che m'aspetta, ma non mi sentirò davvero tranquillo finché non avrò portato quella mia nave in pieno Oceano Indiano». Commentò distrattamente che da Bangkok all'Oceano Indiano c'era un bel pezzo. E a tale mormorio, come per il fioco sprazzo di una lanterna cieca, mi apparve per un attimo l'ampia cintura di isole e scogli esistenti tra l'ignota nave, che era mia, e la libertà dei mari aperti del globo. Ma non provai apprensione. A quei tempi avevo una certa familiarità con l'arcipelago. Attraverso quella regione di terra in frammenti, di brezze deboli e di mari in bonaccia, un'estrema pazienza e un'estrema attenzione mi avrebbero aiutato ad arrivare là dove finalmente avrei sentito la mia nave beccheggiare sul grande mare lungo e sbandare al grande soffio dei venti regolari che le avrebbero dato il senso di una vita più ampia, più intensa. Certo, era una lunga strada. Sono lunghe tutte le strade che conducono a ciò che in cuore si desidera. Ma quella strada me la vedevo in mente come su una mappa, in sede professionale, con tutte le sue complicazioni e difficoltà, e, in un certo senso, anche abbastanza semplice. Si è marinai o non lo si è, e che lo fossi, non avevo dubbi.